al dove parli, quanto è alto, lo sai? Vabbè, sono tutti in giro, io non mi sento più qua. Cambiato la vita di sotto, perché era un po' durata, le ho cambiato, la vita di sotto è contraportata, ma qui ci sono tante cose da pensare, ma tante cose. Fai altri modi, sì, chiaro, no? Va bene così, se esce bene, lo lasciamo così, gli faccio quella modifica lì e buh. Sì, mi metti la, magari se mi puoi mettere la cassa, queste cose qua, però ci sono cose che sono chiamate l'amplificatore, vabbè, già mi accontento io, tu esci abbastanza bene, dai, con quella modifica esci bene, poi deve essere quello di giraffa. No, ma io tiro a 5, io tiro a 5, e qui facciamo due passi, non neanche due passi, ho portato pianta e 6-7 metri, capito, quindi non... chi ha qualche dubbio, venga, gli do lo strumento, sale su in antenna, e in antenna ci sono un watt e mezzo, perché l'ho già provato. 9,5 sei qua, Ravi, la radio è 5 a bomba. Sì, guarda che te l'ho mandato già, allora, se c'è il telefono, ce l'hai questa cosa? Sì. Allora, te l'ho mandato, attimo. L'hai visto già? Accendo di fronte, sì. Quelle casette rosse che ho messo così. Hai visto quei due casi rossi che ci sono, quei due spettincini piccoli che ci sono in alto a destra? Sì, l'ho visto. Ok. Adesso tu guardi, cioè, ci sono, vedi, il filo sotto c'è il filo giallo, il filo rosso, il filo nero, il filo, diciamo, la terra. Sopra di lì, cioè, dove sono le due spettincini rossi, di lì sotto, quindi lì ci sono due resistenze. Gliele lasci, e devi fare il ponticello in quello vuoi salvapiro, un buco di tiro, capito? E così lo bypassi. E il microfono deve fare il collegamento che c'è qua, lo vedi? Sì, ho capito. Vedo tutto com'è, si vede abbastanza bene. Sì, è una cosa proprio facilissima, è una cosa facilissima che prendo a fare. Dopo che fai questa prova qua, già prendi e puoi anche prendere un trasformatore da 9 volt, vedi quelli che vengono dalla sinistra in basso e salgono su, quello lì intanto che è stata eliminata la batteria, e messo trasformatore, perché sembra così, ma anche il trasformatore tira corrente, un po' di corrente giusta, non se ne sono, c'è sempre questo tipo di modulazione, capito? Sì, tu l'hai fatto diventare elettrico, dai, aspetta un secondo. Gavino, ci sei? Baildu? Sì, già. Mi hanno telefonato dei parenti, oh, yeah, per vedere come stavo, e non potevo farne a meno, dai. Ho capito. Aspetta, sto girando questa roba, un attimo. Gira l'elica, romba il motor, che adesso devo fare il riso. Indovina come? Attention my friend, Italy from Sardinia. È una propagazione che attention, my friend, ascolti Sardinia, ascolti Sardinia Italia. Tu lo vuoi vedere ieri notte già, una voluglia è. Poi quando c'è poca gente ti rifai tranquillo, yes. Se no si mettono tutti, vogliono entrare tutti quanti e uno sopra l'altro si calpestano, fanno casino. Invece così quando sei solo, che non c'è gente, è meglio. O se ti trovi in due magari passi il microfono all'altro, eccetera, eccetera, e puoi gestirti la situazione, capito? Sì, esatto, però troppa gente è un casotto. Però se c'è qualcosa ti mando un messaggio su WhatsApp, su Messenger. Per un attimino. Figlia, attenzione alla frequenza, lì della Sardegna che ti fa pelle, ici la stazione del Carromeo della Ville Sassari che fa pelle. Avevamo una mia pure chose. E questo l'hai fatto mandare, te ne hai? Cosa già? QSL non ve ne avete scambiato, no? No. Niente. Sai, c'è un gruppo in continente che si chiama Alfa Tango, oppure ce ne sono diversi di gruppi, che praticamente ti arrivano direttamente al computer le QSL, capito? Quando sei scritto lì. Non l'ho mai sentito. No, vabbè, ma era una cosa... diciamo che nessuno, neanche io e neanche quello che sta a voi si aspettava, perché era una preparazione un po' incredibile, capito? C'era poca gente. C'era un qualcosa ieri sera, infatti era un ascolto, ieri sera ho visto che c'era un po' di roba, però questo magari è una cosa momentanea. Però poi verso le note, capita, dalle note c'era il mondo. E a proposito di ieri sera, tu stavi facendo chiamata alla telefono, ti ho detto aspetta un attimino che c'è una ruota, poi ti abbiamo richiamato, non sei più rientrato, che fine hai fatto? Oh, mi sono spostato sul 12 perché ho collegato un tipo sul 12, dopo, però è stato un minuto e mezzo, capito? E c'era propagazione sul 12 da Bologna. Ah, capito. E io sono da un po' che non faccio DS, vabbè, dalla macchina l'ho fatta anche con Londra io, dal quadrato, dal parcheggio delle querce lì di fronte, non so se sai dov'è, è un po' più su del quadrato rimane, e la strada che va anche per verso Usilo là, lì ho beccato Londra proprio, cioè ho parlato con Londra. Sì, ieri no, tu da qua, vabbè, lo utilizzo. Ma sono convinto che se accendevo questo qua arrivavo anche da qui. Quello c'è un po' pagato anche con pochi watt, ce n'era uno ieri che aveva una boomerang e arrivava benissimo con una boomerang. Quando c'è propagazione è una telefonata, quando c'è propagazione è una telefonata. Ecco, vediamo stasera se c'è qualcosa, è nata la giornata per Maria. Ah, solitamente la propagazione c'è in primavera, in estate, e questo periodo è un po' difficile. È già una cosa buona che ci fosse propagazione. Sì. Stasera guardo di nuovo. Stasera dalle 19, dalle 7, dalle 6, mi ascolto, mi metto un po' di tanto, K. Vabbè, già va bene, Gavi, ma quel 747 sempre ce l'hai. Quel 747 ha problemi. Ha problemi già? Sì, non faccio attaccato e dentro il buio, ha problemi, ma già l'attimo momento. E di che genere, Gavi? Non usciva di cosa, non dava i watt? A volte da un lato, a volte no. Non lo so, a volte funziona, a volte. Ma la sola ghiaccio che ti ha fatto bassi quello là? No, quello là è partito per il ritorno di arresto di corrente. Perché io ingenuamente lo attaccio l'ho attaccato allo stesso alimentatore che avevo a radio e in linea era attaccato, capito? Quindi mi è arrivata una botta di corrente. Via. vabbè. Ma te l'hanno respinto il mandato? Sì, me lo stanno mandando, l'hanno aggiustato. 250 euro. Non lavora. Quella radio quando sbagli paghi. Lo so, però ti fanno anche tutto il controllo generale, te la lineano, ti trovo tutti i difetti che c'ha. Sì, quella radio è tornata, vabbè, era nuova, ma è stata smanettata come di solito fare in queste zone. Era impeccabile, infatti me l'ha detto, sono sempre una fatto una radio e ne vale la pena aggiustarla, perché prima di aggiustarla ho valutato anche quanto possa valere. Questa è una radio che vendi benissimo dalle 5.50, da controllare, e così anche 600 euro si vende perfettamente, quindi la vendo. Al momento a me non mi interessa venderla, perché sto facendo altro, quindi non mi interessa bene. E quando ci sentiamo, dai, quando ci sentiamo in verticale o dai, vi accavo, ti dico una cosa del ricevitore, che c'è un qualcosa di interessante che ti puoi ascoltare, perché sono arrivate loro. Vabbè, dai, Gabri, ti lascio che vado a preparare, se arrivano gli ospiti. Oggi ho due persone invitate qua a casa, devo preparare il riso, ne parlo alla pescatora, ci metto gamberetti, anselle e cozze, e va bene così. Dai, ci sentiamo, Gabri, un po' di peperoncino per non guasta. Gabri. E c'è una sedia in più già, e sto arrivando. Ma stai fischiando però. Ciao, buongiorno. Vabbè, Maria, ascoltando, le leggi di buco di vento? Leggi di buco no, sono penetrato, sono ricevuto acceso. Ho detto, metti una sedia in più e sta arrivando, vai. Non c'è problema. Non c'è problema. Ciao Gabino, se mi stai ascoltando, vabbè, vai già anch'io, rimango pure a scuola per chiudere, vai, sto aspettando che arrivo per il pranzo, ok. Via, ciao, buongiorno. Cosa stavi dicendo già che non cucina? Che sto chiudendo, dai, devo andare a preparare il riso, frutti di mare. Ci vuole un po' di tempo, se no prendono gli ospiti. Sì, va bene. Dai, ci sentiamo stasera sotto il cibo. Io sono o sul 12 o sul 16. Ciao Marino, buon pranzo anche a te, dai. Ciao, buon pranzo, Gabri. Tutto ricambiato al centro, già, tutto ricambiato. Ok, dai, ciao Gabino, anche per te, buon pranzo. Io non ho ancora ascolto in giro, poi vado anche a pranzare. Ciao a tutti, ciao.